Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Benvenuti anche a questa nuova puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Il menù di questa puntata prevede da subito l'intervista di Morina Moretti ad Anna Roberti, che è l'autrice del volume Cipollino nel paese dei Soviet, la fortuna di Gianni Rodari in Unione Sovietica e in Russia, un volume appena edito. E a seguire torniamo poi sul tema della memoria, cominciando con Anna Fo, ovvero la deportazione spiegata ai bambini, e con Jason Lutz, l'autore della famosa Berlin. Dopo uno stacchetto musicale cominciamo subito con i servizi. Allora, cominciamo con l'intervista ad Anna Roberti, che ci racconta il suo Cipollino nel paese dei Soviet, ovvero sia la fortuna di Gianni Rodari e del suo eroe dell'orto Cipollino, prima nell'Unione Sovietica e poi nella Russia di Putin. Anna Roberti, il tuo libro Cipollino nel paese dei Soviet ha un sottotitolo, La fortuna di Gianni Rodari in Russia. Allora, a te proprio chiedo, ma che fortuna ha avuto Cipollino, questo bel personaggio ortofrutticolo di Gianni Rodari? Ma dunque, la fortuna di Rodari è cominciata nel 52 e dura tuttora. Infatti il sottotitolo in realtà è La fortuna di Gianni Rodari in URSS e in Russia, abbiamo messo tra parentesi, perché in effetti la sua fortuna continua adesso. Ed è la fortuna di Cipollino, ma anche di Rodari, delle sue filastrocche, dei suoi libri, perché tutto è stato tradotto in russo praticamente. Le prime traduzioni a quanto risalgono? Le prime traduzioni al 53. Nel 53 escono Le avventure di Cipollino ed escono le prime filastrocche e poi si continua. Si era raggiunto a fine anni 70, mi pare, un 9 milioni di copie di quei libri venduti in URSS. Quindi lui praticamente in URSS ha avuto veramente una traduzione e diffusione straordinaria, eccezionale, molto più che in Italia dello stesso periodo, direi. Sì, lui ovviamente era già noto in Italia, anche se non a tutto il pubblico, intanto per via del Pioniere, che qui sì. Ricordiamo naturalmente come direttore del Pioniere, e anche Le avventure di Cipollino, che si chiamava inizio il romanzo di Cipollino, aveva già avuto la sua diffusione. Poi è ovvio che quando comincia a pubblicare con Einaudi dal 60 in poi esplode e arriva, come viene detto dai suoi biografi, in tutte le case e da tutti i bambini, in tutte le famiglie, cosa che prima non era avvenuto perché era abbastanza ristretto all'ambito del PC e dei lettori del Pioniere. E in URSS la sua fortuna arriva un po' prima, e la cosa curiosa è che ad esempio Le avventure di Cipollino in Italia sono abbastanza note appunto negli anni 50, anche perché Cipollino è uno degli eroi del Pioniere, e poi dagli anni 60 in poi Cipollino qui da noi passa un po' in secondo piano, infatti non è molto conosciuto in Italia, mentre in URSS e in Russia è l'eroe per antonomasia proprio. Anna, le chiedo, ha a che fare comunque con la sua appartenenza politica? Rodari era comunista, era scritto al Partito Comunista, quindi questa traduzione, questa fortuna inizialmente, quindi la traduzione di Rodari, fu anche dovuta al fatto che lui era uno scrittore comunista e quindi nelle sue filastrocche c'era un po' un modello che poteva essere identificato allora come un modello invece capitalista, e quindi in un certo senso è stato molto diffuso anche per questa ragione? Ma questo sicuramente, e c'è anche il fattore del suo traduttore delle filastrocche essenzialmente, che era il poeta Samuil Marshak, che era un poeta per l'infanzia già molto noto, il quale ha marshakizzato, sovietizzato un po' le sue filastrocche. Io ho fatto un confronto partendo dall'originale di Rodari e guardando le traduzioni di Marshak, che le gonfia un pochettino, insomma, mantiene ovviamente il significato iniziale, però dove può gonfiare un po' in senso appunto sovietico lo fa. C'è una cosa curiosa che dice Rodari in un'intervista abbastanza rara che ho ritrovato, che aveva dato nel 79 a una rivista sovietica, poi fu pubblicata sulla rivista Rassegna Sovietica e poi in Slavia, e lui a un certo punto dice, e leggo proprio letteralmente, che l'URSS secondo lui era il paese che più di altri aveva colto pienamente l'aspetto fantastico dei suoi libri, e questo è curioso. Sì, è vero, certo, perché è andato praticamente, lui dice, sono andati oltre, qui invece non è stato colto questo aspetto. Sì, è molto interessante questa sua... Sì, sì, lui dice proprio questo, che tanti editori occidentali hanno più calcato la mano, proprio al contrario di quello che si penserebbe, sul fatto del significato progressista, politico, e invece, nonostante appunto questa spinta anche data dal suo traduttore, il pubblico sovietico, insomma i bambini sovietici, hanno molto colto l'aspetto fantastico. E d'altronde Le avventure di Cipollino, che furono tradotte da un'altra traduttrice, Svata Patapova, e furono tradotte invece in modo molto letterale. Io ho fatto un confronto anche qui, partendo dall'originale e arrivando alla traduzione. Qui non fu fatta nessuna forzatura. Bisogna dire che Cipollino diventò subito un cartone animato, poi un film invece con personaggi reali, diventò un balletto. Furono prodotti un sacco di gadget con la forma di Cipollino e dei suoi amici, cioè ebbe una fortuna proprio pazzesca come personaggio, un bambino che lotta contro le ingiustizie, però in questo mondo fantastico, di questo orto fantastico che lui si inventa, da cosa piacque molto. Rodari, Gianni Rodari va spesso in URSS, diverse volte in URSS, tu nel tuo libro lo racconti, e come era accolto? Ma la prima volta nel 1951 nessuno lo conosceva, perché andò in veste di direttore del Pioniere al seguito di una delegazione formata da esponenti del PCI e del PSI, e nessuno lo conosceva come scrittore. Avvenne proprio lì questa cosa curiosa, che lui si era messo in valigia qualche copia dei suoi due libri che erano appena usciti in Italia, e prima di partire li regala agli accompagnatori, e vanno in mano a chi di dovere, un po' per caso, e decidono di tradurlo. E quindi allora comunque non lo conosceva nessuno. Quando nel 63 torna la prima volta, e poi tornerà moltissime volte fino al 79, viene accolto come un italiano più famoso dopo Togliatti, si diceva negli anni 50, prima nei 60, viene accolto come un eroe, e ho trovato descrizioni molto divertenti dei suoi incontri con i bambini, ma anche con bibliotecari, con le famiglie, e lui appare sempre quello che era, sappiamo da altri racconti, cioè molto modesto, molto ironico, divertente, simpatico, voleva conoscere molto della realtà, quindi se riusciva a farsi invitare nelle case era molto contento. La cosa avviene almeno in un paio di occasioni, ci sono delle descrizioni molto divertenti di queste famiglie russe terrorizzate, perché oddio, arriva Gianni Rodari a pranzo, a cena, e allora tutti che si mettono in moto, e i vicini, le maestre che aiutano a pulire l'androne di casa, la fabbrica dove lavora la mamma di una bambina, che le dà i soldi per comprare una torta perché arriva Rodari. Lui era comunque molto tranquillo, non si dava assolutamente aria da prima donna, questo, ma non l'ha mai fatto neanche in Italia, quanto mi risulta. Сейчас он бы безвестный жут, а мой кровавый свят. Sempre ascoltando Anna Roberti, laureata in lingua e letteratura russa, ha lavorato come insegnante, traduttrice ed interprete, dirigendo per 20 anni l'associazione torinese Ruski Mir. Anna Roberti, Gianni Rodari in URSS. Lui dell'URSS diceva anche che era affascinato in qualche modo dalla pedagogia sovietica. Ricordiamo che in Italia comunque anche la pedagogia di Makarenko arrivò in quegli anni e fu anche molto non solo letta ma apprezzata. Su questo Gianni Rodari, che è attento appunto ai modelli educativi sovietici, che cosa puoi dirci? Ma io ho trovato i suoi reportage che aveva scritto per Paese Sera nel 64 e nel 69, e poi ho letto questo ultimo suo libro che si chiama Giochi nell'URSS, appunti di viaggio, che sono appunto appunti perché non fece in tempo a dargli una forma definitiva. Andò in URSS, stette addirittura 2 mesi fra agosto e ottobre del 79, e poi quando tornò in Italia dopo pochi mesi morì. C'è un po' di differenza fra quello che lui scrive nel 64 e quello che scrive negli appunti del 79. Nel 63 e 64 è molto più affascinato da tutto, tesse grandi lodi del sistema educativo pedagogico. Nel 79 ha qualche dubbio, gli sembrano un po' ingessati i bambini, mi pare che non si dia tanto spazio all'immaginazione. Effettivamente 63-64 erano gli anni anche in URSS un po' ruggenti, come gli anni 20, però insomma c'era stata la destabilizzazione, Khrushchev eccetera, e anche a livello culturale c'era una grande effervescenza. Nel 79 siamo nel periodo di Brezhnev, quello che viene chiamato di stagnazione, e un pochettino queste cose lui la nota. Rimane una grande sua ammirazione per tutta una serie di servizi intanto gratuiti che venivano offerti ai bambini, sia come attività curricolare che extracurricolare. Per altre cose, insomma, alla fine del 79 è un po' più critico. Irregimentazione dei bambini degli scolari in generale. Parliamo della Russia, cioè quindi veniamo all'attualità fino a oggi, per capire con lei se Cipollino è ancora letto, tradotto e se no. Sì, sì, Cipollino continua a essere tradotto ed è diventato il simbolo intanto dei giovani che lottano per l'ambiente, perché quando ci sono state le manifestazioni del Friday for Future si sono svolte anche in Russia, e il simbolo che è stato usato è stato proprio Cipollino, no? Come appunto anche quel piccolo che lotta contro le ingiustizie. Hanno anche l'anno scorso messo in scena uno spettacolo che ha provocato una sorta di censura, perché era stato molto attualizzato, forse un po' troppo, e era stato visto qualche attacco al sindaco di Mosca, a certi programmi di rivalutazione del centro storico che non sono piaciuti a tutti. Parlo anche di un gruppo rock che si chiama Gianni Rodari, perché i russi la G non la dicono, quindi Gianni è diventato Gianni, e ho fatto anche un'intervista al fondatore di questo gruppo, e lui sostiene che c'è bisogno di un nuovo Cipollino adesso, nelle mutate condizioni, che prenda un po', insomma, le redini della situazione. Lui e il suo gruppo, insomma, sono abbastanza scontenti della piega che ha preso questo paese dopo il dissolvimento dell'URSS, queste nuove figure di nuovi ricchi che sono comparsi non piacciono tanto, e quindi anche qui Cipollino ci sta. Пожалуйста, будь добра. Dopo il clamoroso successo di Rodari a Mosca tramite la rete, guardiamo anche il mondo delle graphic novels impegnato nella memoria di un orrore che non va dimenticato, salvo poi ritrovarne i fantasmi anche oggi. Cominciamo con Anna Foa e apriamo un focus sulla deportazione degli ebrei a Roma. Inizialmente un libro, Il portico d'Ottavia 13, una casa del ghetto nel lungo inverno del 43, pubblicato dalla Terza nel 2013, raccontava la storia di un palazzo e dei suoi abitanti all'epoca della deportazione degli ebrei da Roma per mano dei nazisti. La stessa casa editrice ha riproposto allora una versione per i bambini di quel racconto. L'adattamento è di Carola Susani, le illustrazioni sono di Matteo Berton, il titolo è Portico d'Ottavia. Allora con Anna Foa abbiamo ragionato sulla necessità di affrontare con i bambini i temi della persecuzione degli ebrei, la deportazione e sui modi in cui farlo. L'idea di ridurre per bambini il mio libro Portico d'Ottavia 13 è nata all'editore La Terza, che ha pubblica una collana per bambini dai 6 ai 10 anni, ce la canto, e mi ha chiesto se poteva adattare il mio libro, cosa che a me ha fatto molto piacere, perché raggiungere un pubblico di bambini è una cosa che mi sembra molto bella e anche molto difficile. Naturalmente non sono stata io a riscrivere la storia per bambini, ma è stata adattata da una scrittrice per bambini, Carola Susani, e ci sono delle splendide, veramente bellissime illustrazioni di Matteo Berton, un giovane grafico disegnatore che ha fatto una cosa splendida. Io con loro gli ho fatto vedere la casa, sono andato, ho cercato un po' di farli medesimare. Poi parlando è venuta fuori l'idea di parlare soltanto del giorno del 16 ottobre, della razzia, non di tutto il resto ovviamente per bambini, raccontare la razzia e farla raccontare da un incontro fra me e una delle sopravvissute che ritorna bambina come una fantasmina, e quindi c'è tutta questa storia e lei mi mostra quello che è successo. Si è molto puntato su degli elementi che non dessero un senso di grande fastidio, di grande dolore ai bambini, per cui si è cercato di non, naturalmente si dice che muoiono le persone, però si è cercato di sottolineare anche questi elementi, come dire, pieni di speranza o pieni anche di avventura. Per esempio le due donne che mettono la lastra di marmo della cucina, del tavolo di cucina addosso, che è tutto vero, poi addosso alla porta per evitare che i nazisti sfondino la porta, il fantasma che appare, tutta una serie di elementi, la casa com'è piena di cunicoli avventurose in cui i bambini giocano, tutta una serie di cose che possono interessare i ragazzini così giovani, sono molto giovani, è molto difficile io credo arrivare, per me è stata una scommessa, ancora non so, mi piacerebbe molto parlare con i bambini e raccontargli questa storia e vedere cosa sentono, perché è molto difficile credo parlare con bambini delle elementari di questa cosa. Credo che non si può raccontare l'orrore e la novità e il fatto che sia una cosa assolutamente al di là di qualunque previsione, è come probabilmente se i bambini avessero immediatamente la percezione di questa cosa, della sensazione limite, di quel limite che si è toccato con la Shoah, forse tutto il loro universo sarebbe destrutturato. Credo che, come è stato destrutturato anche per un bambino che l'ha sfiorata da vicino senza nemmeno entrarci dentro, tanto più perché poi è passato dai campi e l'ha raccontata, e sappiamo queste storie terribili, pochi bambini sopravvissuti ai campi, pochissimi. Così credo che un bambino, anche vivendo una vita normale, se riuscisse a toccare questa cosa che anche per gli adulti è difficilissima da raggiungere, sarebbe destrutturato completamente. Noi abbiamo degli strumenti di cultura e di razionalità, i bambini no. Thank you. Questa era Anna Foa, a rivolgere la testimonianza di Jason Liute, statunitense, fumettista, noto soprattutto per la miniserie Berlin, che lo ha tenuto impegnato per oltre 20 anni. Ha realizzato altre graphic novels e brevi racconti pubblicati su volumi antologici. Oggi insegna al Center for Cartoon Studies. Inizialmente pensavo, mentre facevo il fumetto, che sarebbe stata semplicemente una storia sul passato, sulla storia, un'analisi di un certo periodo storico. Quando ho iniziato a lavorarci, la situazione politica era molto diversa, era 1996, tutte queste spinte un po' neofasciste o reazionarie erano comunque molto, molto più minoritarie, ecco. La cosa, se vogliamo, strana è che comunque, ovvio, il libro racconta un periodo storico che dura circa 5 anni, mentre a me sono serviti 22 anni per farlo. Però già nel momento in cui avevo iniziato a lavorarci, piano piano stavano apparendo dei paralleli. Ad esempio, c'è un capitolo dedicato a un importante sciopero dei lavoratori del 1° maggio del 1929, in cui la polizia spara sui manifestanti e uccide circa una trentina di persone. E questo, ad esempio, lo stavo realizzando proprio negli anni in cui lui viveva a Seattle e c'erano i grandi scioperi, le grandi proteste contro lo WTO che si stava tenendo proprio in città. E quindi mi sono trovato già lì a trovare un parallelo inquietante nel vedere che stavo raccontando una cosa su cui poteva esserci estremamente un parallelo contemporaneo. E in qualche modo è come se, continuando a lavorarci, questi parallelismi storici tra il passato e il presente giungessero a un punto di conversione, a un punto di fuga unificante, tanto che appunto l'ultimo capitolo lo stavo scrivendo proprio mentre in America si tenevano le elezioni di Trump, che sono state anche supportate chiaramente da gruppi neonazisti o neofascisti. E, se devo, ovviamente tutte le persone mi chiedono se ci sono dei paralleli tra la situazione storica della Repubblica di Weimar e quella attuale. È ovvio che le situazioni sono estremamente diverse e dei punti di contatto allo stesso tempo si possono trovare. Quello che mi sembra di aver capito studiando anche per preparare questo libro è come se nel corso della storia dell'uomo si agitasse un gigantesco serpente che in certi periodi storici è sottoterra o sott'acqua, diciamo, e in altri periodi emerge. Ed è come se l'uomo è un serpente che non si può uccidere, perché chiaramente fa parte forse della natura dell'uomo. Quello che possiamo fare è cercare di capire quali modi si possono avere per domare questo serpente e ricacciarlo sotto il livello del suolo. Sono morto con altri 100. Sono morto che ero un bambino. Passato per un camino. E adesso io sono nel vento. C'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso io sono nel vento. Tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento.